Bene, lo dico per chi ci ascolta, perché lui lo sa. E volevamo un po' parlare della situazione che c'è adesso in Grecia, più che altro rispetto alle notizie che abbiamo, siamo riusciti a cogliere con molta fatica in questi giorni da varie fonti, qualche quotidiano greco o il sito di Occupied London, Indymedia Atene e così via. Allora, intanto questa grande concentrazione di gente che c'è da diversi giorni a Piazza della Costituzione, a Piazza Sintagma, e, ci vuoi dire qualche cosa, quello che sai? Qui le notizie che abbiamo, intanto te le dico, sono insomma di numeri enormi, io ho letto anche 200.000 persone nella giornata, insomma qualche giorno fa, so che ieri sera ancora c'era un nuovo appuntamento alle 7. Quindi volevamo chiederti un po' su questo, un po' soprattutto, che è quello che riesce non facilissimo da capire, qual è un po' la composizione anche, chiamiamola così, sociale di queste assemblee, perché ci sembra di capire che sia comunque qualcosa di diverso e forse anche di più rispetto a quello che per esempio è successo in altre piazze della Spagna. Senza dubbio è così. Queste manifestazioni sono iniziate dopo un invito da parte dei spagnoli, i quali hanno detto che aspettiamo anche i greci che si muovano. E dal momento in cui hanno detto una cosa simile, tante persone, soprattutto giovani, hanno dato appuntamenti via internet, email eccetera eccetera, in centro di Atene, e da quel giorno la piazza della Costituzione, come giustamente hai detto te, è sempre stata occupata dalla gente. Ci sono stati all'inizio 3, 4, 10.000 persone, e all'appuntamento di domenica scorsa c'erano, a detto della polizia, almeno 350.000 persone, anche di più, perché la polizia dà sempre i numeri di meno, e questa situazione continua tutti i giorni, da un appuntamento verso le 7 lì alla piazza, e la piazza praticamente dove ci fanno l'assemblea eccetera eccetera. È un po' la piazza che è stata anche il centro di tutte le mobilitazioni di quest'ultimo anno rispetto alle misure del governo decise. Ma certo, perché c'è subito dopo, c'è la piazza, c'è il monumento per il Milite Ignoto, e subito sopra c'è il Parlamento. E capite bene che tutte le manifestazioni per il mnemonio eccetera finiscono là, cioè arrivano fin là. Comunque mi sembra pure ingeneroso e un po' fuorviante questo che tu hai chiamato invito dei compagni spagnoli, perché insomma mi sembra che la Grecia si stia mobilitando come nessun altro popolo in Europa, rispetto, anche perché ha una situazione particolare, ma comunque rispetto appunto a queste nuove misure e al cappio al collo che gli si stringe sempre di più, cioè è un anno che ci sono scioperi continui, quindi insomma direi che se c'è un popolo che si è mobilitato è quello greco. Sì, però bisogna tener conto che il governo è il Partito Socialista. Il Partito Socialista che praticamente governa la Grecia dall'81, con intervalli ovviamente, no? E di conseguenza tutti tutte le organizzazioni sindacali, tutte le grandi società dell'Enel, della luce o dell'acqua eccetera eccetera, fanno parte, i sindacalisti sono i sindacalisti del Partito Socialista, e di conseguenza non è che si muovono molto facilmente, perché il governo li trattiene, no? Quindi anche nei consigli d'amministrazione di queste grandi aziende che saranno privatizzate. È ovvio, ma anche i consigli degli operai, capisci bene, certo. No? Anche la Confederazione degli Operai di Atene, la Confederazione praticamente in mano ai socialisti. E sti qua cercavano di frenare il movimento spontaneo che è nato dopo queste misure qua. E vi ricordo che sto mnemonio, che è in vigore praticamente da un anno. Il minimonio, scusami Tasso, sarebbe il memorandum, come lo chiamiamo qui, no? Il minimonio. Sì, il memorandum è passato praticamente senza chiedere niente alla popolazione, è passato al Parlamento con con i voti del Partito Socialista Greco, e praticamente la gente usciva in strada e c'erano anche dei grossi casini. Una volta ogni tanto che i sindacalisti socialisti decidevano di sedere in piazza. Invece in ultimo periodo spontaneamente è nato questo movimento di gente incavolata, e praticamente c'è questa manifestazione perpetua lì alla piazza Sindama. Quindi tu dici che è una visibilità che è stata data finalmente a tutta quella parte che ormai dai numeri che ci hai dato è enorme, che non si riconosce in questi sindacati, in questi partiti? È ovvio, adesso vanno tutti, pensate un po' che il Partito Comunista Greco, che è la sinistra praticamente più organizzata, eccetera, eccetera, non partecipa a questa manifestazione di Sindama. Come lo giustifica? Cosa dice ufficialmente? Ma vedi, il discorso è che loro non riescono a controllare, dicono che è un movimento spontaneo, non riescono a controllare, allora li sputano addosso. Lo stesso gli anarchici non riescono a controllare la situazione, di conseguenza lo guardano un pochettino con perplessità. Beh, forse gli anarchici è più che altro, perché non parlerei di controllo, non lo so, poi dimmi tu, perché per il KKE sicuramente è così. Forse gli anarchici perché magari hanno visto due bandiere greche in mezzo a questo mare di gente. Ma certo, anche quello è ovvio, no? E non gli permettono di portare i loro striscioni, cioè chi va giù non ha striscioni di partiti, eccetera eccetera. E pensate anche che, non so se avete idea di cosa sta succedendo in quest'ultimo periodo, ma i ministri, i deputati del Partito Socialista non si presentano nelle piazze a parlare, perché ovunque vadano li tirano yogurt, pomodori, eccetera, eccetera, no? C'è una reazione spontanea di gente che ha votato il Partito Socialista, i quali non si riconoscono più a queste posizioni estreme che ha preso questo partito. Ecco, infatti, a proposito di questo, poi volevo parlare anche della situazione all'interno del PASOK, di quello che un po' ha detto Papandreou, però ti volevo chiedere, adesso ci sono queste nuove misure che saranno votate il 15 maggio, il 15 prossimo mi pare, no? 15 certo, giugno, certo. Questo ulteriore memorandum ancora più pesante. L'hanno già accennato, sì. L'hanno già passato dal Consiglio dei Ministri, sì. E adesso fra una quindicina di giorni lo devono presentare al Parlamento. Ovviamente dicono, perché è uscito anche l'altro giorno Papandreou alle TV, ieri, dicendo che chiede il Consiglio il sostegno di tutti, e chiede anche gente riconosciuta come gente capace, anche se non fanno parte del suo partito, a collaborare. Sì, insomma, una specie di governo di unità nazionale, come si diceva qui. Sì, lo chiede, ma chi gli dà sta mano libera? Nella democrazia che posizione ha? La nuova democrazia dice chiaramente che se il memorandum un anno adesso non ha offerto niente alla popolazione greca, tranne che la povertà, non vedono perché deve continuare questo memorandum per ancora un anno. E loro che proposta fanno? Ricordiamo che nella democrazia il governo precedente a questo di destra, che però è stato poi quello un po' che, al di là di analisi economiche insomma più raffinate, che però ha fatto dilagare ancora di più corruzione, privilegi e così via. È ovvio. Ma sti qua, sai, questi ultimi anni, questi 30 anni in Grecia, hanno chi andava al governo cercava di mettere nello Stato i suoi prediletti, no? E di conseguenza un po' l'uno, un po' l'altro hanno gonfiato un po' l'apparato statale, e negli ultimi anni ovviamente l'economia greca non può sostenere questo stato enorme. Senti, invece, per tornare alle nuove misure, io ho letto che ci sono ulteriori tagli ancora a stipendi e pensioni, poi una cosa molto pesante che è l'abbassamento del tetto per l'esenzione fiscale con una retroattività addirittura per il 2010. Sì, ma stanno parlando di di aumentare le tasse eccetera eccetera fino al 2015. E poi tutte le privatizzazioni che ovviamente vanno avanti. Ovviamente, cioè non. E pensa che vogliono vendere i porti di Atene e di Salonico, l'Enel greca, e vogliono vendere la SIP greca, le poste. Anche le poste. Com'è? Anche le poste, ho sentito. E le poste, gli uffici postali, la distribuzione. Sì, anche l'ufficio postale, eccetera. E pensa che tutte queste misure hanno, queste proposte praticamente che stanno prendendo, hanno contro tutto l'apparato di questi gruppi che appartiene al Partito Socialista Greco, cioè tutti i lavoratori, i sindacalisti che lavorano in questi gruppi enormi dell'apparato statale sono contrari, e di conseguenza c'è uno scontro sotterraneo enorme all'interno del Partito Socialista Greco. Non vorrei scordarmi, non vorrei scordarmi di dirvi che la settimana scorsa, cioè venerdì scorsa, hanno presentato 16 deputati del Partito Socialista Greco, hanno presentato una mozione verso il governo, no? È stata discussa questa mozione martedì scorso, cioè 5 giorni fa, in un CTE del Partito Socialista al governo. C'erano 4 ministri che spiegavano le misure e c'erano 80-90 deputati che gli hanno detto di tutto. Ti sto dicendo di tutto. C'era ex ministro che gli ha detto: siete incapaci. Ero venuto l'anno scorso a parlare con il ministro dell'economia, che dovevano prendere delle misure, e lui mi guardava come UFO. L'ha detto Frosso Papandreou, ex ministro dell'economia. Quindi c'è Floridis, Floridis, un ex ministro, gli ha detto che non è possibile all'inizio dell'anno di averci parlato di 6.400 miliardi, e adesso vi presentate a dire che avete ancora i deficit di 6.400 miliardi. È possibile, dice, in un periodo di 6 mesi? Vuol dire che non avete fatto niente, siete incapaci. E lo dice socialista ex ministro al ministro dell'economia. Cos'è, assurdo? Senti, quindi io leggevo ancora che si parla anche di un possibile rimpasto di governo da parte di Papandreou, ma in che direzione? Di un allargamento quindi alla destra o all'opposizione, che so, Siriza? Ma non lo so, guarda, l'ha detto 2 volte ieri al Parlamento e poi al Consiglio dei Ministri. Ha detto che ci sarà un impasto. Poi come lo farà non lo so. Ma scusa un momentino, se la gente di destra, della destra della Democrazia Cristiana, della democrazia, Nuova Democrazia, non vogliono dare un sostegno al governo. Certo. Perché dicono che queste misure non portano luce al tunnel del buio dove siamo entrati. E con chi farà sto governo? Ma che proposte fa Nuova Democrazia rispetto al problema? Ma no, non lo so, il capo della Democrazia Cristiana è uscito 2-3 giorni che era all'estero, si è incontrato con Robai, con gente della comunità europea, con Fillon, primo ministro francese, eccetera, e dove diceva che con queste misure qua la Grecia va sempre più affondando e che devono ridiscutere sto mimonio e vedere un pochettino com'è la situazione. Però capisci bene che nessuno non accetta queste discussioni. No, però certo, poi una controproposta sempre nell'ambito, diciamo, capitalista e finanziario, è ovvio, una controproposta, no? Non c'è. E vabbè, senti, quindi io andiamo verso la conclusione, volevo solo avere la conferma da te che questa situazione di Atene con questi appuntamenti di massa, mi sembra di aver capito che si ripropone anche in altre città, per esempio anche a Salonicco. Certo, a Salonicco, a Patraso, a Ianena, tutta la Grecia. Si è allargata. Sì. Vorrei dirti che il 15 del mese, cioè mercoledì prossimo, sì, presenteranno al Parlamento questo memorandum nuovo, sì, no? C'è l'appuntamento per circondare tutto il Parlamento, per non far entrare i parlamentari dentro, e praticamente ci sarà un altro raduno di migliaia e migliaia di persone. E quindi si prospetta una giornata bella calda. Bella calda anche perché, non so se avete visto le scene del Parlamento greco, che una sera che hanno tentato di chiudere le porte del Parlamento non riuscivano a uscire i parlamentari e li hanno fatti scappare praticamente tramite il giardino nazionale, sì, scortati, non dalle uscite principali, scortati dai pompieri con le fiaccole, con le torce, sì. Ma te lo giuro, sì, ma lo so, allucinante. No, ma questo infatti l'ho visto, e, però hanno anche, diciamo, imparando da questo, perché la gente appunto impediva l'uscita, aveva chiuso questi cancelli, hanno fatto una specie di zona rossa, di terra di nessuno, con proprio delle costruzioni metalliche per non far arrivare la gente fino lì. Senti, certo, però capisci bene che se si radunano 400-500 mila persone, difficile, per chiudere il Parlamento, fanno una zona tutta intorno e chiudono tutto praticamente, certo. Di conseguenza mercoledì prossimo non so come andrà a finire. Certo, senti, allora, la proposta è stata questa praticamente. Sì, comunque ho visto che già dall'altro ieri hanno cominciato una serie di scioperi di varie categorie per arrivare poi a quello generale del 15, certo, di mercoledì, certo. Quindi insomma anche è una grande pure, diciamo, fatica per i lavoratori greci rispetto a questa cosa, insomma, anche una situazione forza, però così. Però se ti tagliano lo stipendio, ti tagliano tutti gli affari, cosa fai? Scusa. Certo, però vedo anche da comunicati che sono riuscita ad avere perché so che l'assemblea di Piazza della Costituzione si divide poi in commissioni, no, che discutono sui vari, sì, aspetti, sì. C'era i lavoratori del gruppo tematico della disoccupazione che insomma hanno fatto un comunicato che non so se tu hai visto, che mi è sembrato molto molto bello, che dice: noi siamo coloro che producono la ricchezza ma non siamo in grado di vivere, siamo diversi, siamo disoccupati, precari, pubblici, privati, però abbiamo un lavoro, un problema comune, che è il nostro nemico, che sono i datori di lavoro. E poi va avanti, insomma, e fa un'analisi bella, insomma, succinta, ma molto, molto lucida di quello che, di chi è il nemico, insomma, no? Lo sfruttamento, certo, loro lo dicono chiaramente. Fanno anche delle proposte. Esatto, fanno anche delle proposte: riduzione dell'orario di lavoro, lavoro per tutti, certo, libera circolazione, certo, per tutti, fermare le rate di mutuo e dei debiti ai disoccupati, copertura sanitaria completa per tutti, pensione per tutti e un fondo di disoccupazione pari all'ultima retribuzione. Insomma, non mi sembrano rivendicazioni. Ma pensa che in Grecia c'era la istruzione gratuita per tutti. C'era l'assistenza sanitaria per tutti. Già dall'82, quando è uscito il Partito Socialista Greco al governo, da allora ci sono state tutte queste cose. Con lotte, cavolo. Con lotte sono state guadagnate queste cose. Adesso vai negli ospedali e ti dicono, l'altro giorno ero andato all'ospedale, parlavo con un professore e mi diceva che vogliono chiudere quell'ospedale e farlo praticamente funzionare insieme a un altro fianco, diminuendo il personale, e non hanno le gaze, non hanno tante cose, una vergogna quella. Quelli che hanno parlato di istruzione, di sanità, eccetera, eccetera, e la stanno proprio mandando alla rovina. Sì, Tasso, sembra di sentire una corrispondenza dall'Italia, perché a parte la questione del memorandum, insomma, quando parli di ospedale e di istruzione pubblica sembra che tu stia parlando dell'Italia. Va bene, io per adesso ti saluto tanto, ti ringrazio, ciao, statemi bene, vi ripetiamo noi che avete le nostre informazioni e le divulgate. D'accordo. Ciao, buongiorno. Ciao, baci, ciao.